Lesso. Duecentoventisei. Pollo lesso. Il pollame lesso, specialmente i capponi e le pollastre ingrassate, riusciranno più bianchi e più puliti, senza che la sostanza del brodo ne soffra, se li cuocete entro a un pannolino sottile e legato. Per i lessi rifatti, vedi i numeri 355, 356 e 357. Tramessi. Sono gli entremets dei francesi. Piatti di minor conto che si servono tra una portata e l'altra. 227. Crisentine. Se l'aglio è un vermifugo, come si reputa generalmente, questo è un cibo semplice e appetitoso per i bambini. Arrostite delle fette di pane da ambedue le parti e così calde. Strofinatele con uno spicchio d'aglio, poi conditele con sale, olio, aceto e zucchero.